e ci viene in mente Down by Law. Down by Law, il film forse più leggero, più ironico, ma con un sottofondo molto serio sul carcere. Down by Law è anche il nome di un locale torinese, un locale jazz, dove si tiene alle 21:30 di stasera l'evento che abbiamo scelto di presentarvi oggi a Fahrenheit, uno slam poetry di Natale, ha un nome complesso forse per le orecchie italiane, Christmas Slam, scritto Xmas Slam, sembra un acrostico degno di Bartezaghi, ma ovviamente si tratta semplicemente di uno slam poetry natalizio. Ne parliamo con l'organizzatore poeta Max Ponte. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno i preparativi intanto? Dunque, vanno molto bene, abbiamo avuto molte richieste, nulla, siamo... Ma c'è molto da preparare per uno slam? Dunque, più che altro è un fatto, penso, di contatti continui per essere sicuri che tutto sia a posto. Abbiamo poeti che vengono un po' da tutta Italia, che hanno partecipato a questa gara e quindi è bene sapere che ci siano tutti, insomma. Ponte, può dirci comunque, spiegare a chi ci ascolta che cos'è un Poetry Slam, perché penso che non sia ancora una forma nota al grande pubblico, come funziona, che cosa si propone di fare anche? Esatto, dunque il Poetry Slam è prima di tutto una gara poetica che è nata negli Stati Uniti negli anni Ottanta, che come molti ascoltatori sicuramente sapranno è stata lanciata da Roma Poesia. È una gara poetica che è molto avvincente per il fatto che le poesie sono molto brevi, hanno una durata che non deve superare i 3 minuti e soprattutto c'è una giuria popolare e c'è un riscontro del pubblico che è il vero protagonista. Questa giuria popolare è formata da 5 membri che sono nominati in loco, quindi si tratta proprio di uno spettacolo che poetico, che però è molto coinvolgente. Allo stesso tempo, quando è nato voleva essere una gara, uno spettacolo molto democratico, e quello che tentiamo di fare noi è rendere lo slam, che in Italia è presente in alcune città, più democratico possibile, perché abbiamo notato appunto che va verso una forma molto istituzionale e noi abbiamo tentato di riprendere lo spirito iniziale, che è quello dell'apertura nei confronti di tutti. Infatti, dunque, l'istituzionalizzazione che lei lamenta in che cosa consiste? L'istituzionalizzazione consiste nel fatto che in queste gare spesso e volentieri, e questa è una critica che avanzo anche a chi l'ha portato in Italia, nonostante abbia tanti meriti, chiaramente, spesso e volentieri si invitano soltanto persone che si conoscono, che sono tra virgolette già affermate nell'ambito letterario, e non si fa dello slam invece qualcosa di veramente popolare. Questo, anche con l'aiuto delle istituzioni, talvolta può essere anche non sempre positivo, per il fatto che spesso ci sono fondi, diciamo così, che possono in qualche modo intaccare lo spirito originario. Ma per esempio si vince qualcosa? Nel nostro caso si vincono dei libri, per cui abbiamo messo in palio per il vincitore una certa quantità di libri e abbiamo dato questo taglio così più giocoso alla nostra gara natalizia. E la giuria popolare, lei ci diceva, è nominata lì per lì, ma come? Con un'estrazione sorta? Con un'estrazione, esatto. Tutti coloro che sono disponibili nel luogo a entrare a far parte della giuria ricevono un numero e questi numeri vengono estratti e si appunto estraggono queste 5 persone. Noi precisiamo che seguiamo proprio scrupolosamente le regole del Poetry Slam, così come sono state emanate, insomma, dalle organizzazioni appunto statunitensi, quindi cerchiamo di essere più appunto coerenti possibile con questo tipo di gara. Ecco, Ponte, che cosa ne pensa lei di quell'altra forma di espressione poetica pubblica che è l'open mic, in cui non c'è neanche una selezione, come mi pare di capire che comunque vi sia nel vostro slam e in altri slam simili, ma invece semplicemente chiunque entra in un locale può prendere il microfono e parlare, come dice il nome? Sì, certo, io questa la conosco perché ad esempio ho un po' visto tutte le manifestazioni, che le principali almeno manifestazioni che ci sono in Italia, anche a Parigi, dove si fa lo slam, ma lo si fa ad esempio in maniera diversa. Le slam session a Parigi sono, come dice lei giustamente, aperte, però non sono dei veri slam, e lo slam secondo me ha questo diciamo cosa positiva, questo fattore positivo dello slam è che riesce a inquadrare la poesia in una forma che diventa molto chiara e diventa anche molto comunicabile all'esterno. La poesia spesso in Italia risulta noiosa, per cui quando si racconta, ma spesso chi gli ha detto il lavoro lo sanno, un amico, un collega, eccetera, di queste manifestazioni, hanno subito il terrore di essere invasi da qualcosa di noiosissimo e polveroso. E bisogna uscire, secondo me, da questa problematica attraverso questi metodi, che possono essere lo SLAM, ma possono essere anche tanti altri. Ancora una domanda per Max Ponte, organizzatore di questo Poetry Slam. Alla fine darò di nuovo i dati per i torinesi o coloro che volessero arrivare fino a Torino per andare. Ecco, nella tradizione, non solo dello slam, ma in generale della poesia orale, negli Stati Uniti, da cui lo slam viene, è molto forte la componente etnica, i neri, i dominicani, certo. Dicendo. Ecco, in Italia succede qualcosa del genere con i dialetti? Dunque, nel nostro quartiere sì, perché lo slam si svolge a San Salvario, che è uno dei quartieri centrali di Torino, dove c'è molto, diciamo, multiculturalismo, ci sono varie etnie, vari dai valdesi, insomma, ai musulmani, quindi c'è tutto un mélange molto interessante. Nel nostro slam, proprio questa sera, abbiamo una poetessa italo-cubana, abbiamo anche una poetessa romena, quindi c'è già un... I testi sono tutti in italiano o anche... I testi sono tutti in italiano, in questo caso perché è uno slam nazionale. Abbiamo fatto altri slam qui a Torino in collaborazione con la Primavera dei Poeti, dove si facevano degli slam italo-francesi. In questo caso si tratta di uno slam in italiano. Ma quando scegliete i testi, avete solamente sotto gli occhi il testo scritto, oppure potete, diciamo, fare questa preselezione anche vedendo la performance? Dunque, noi la preselezione la facciamo sul testo scritto, proprio perché... Poi c'è un elemento di sorpresa, quindi vedremo come il poeta uomo o donna che sia leggerà i suoi testi. Certo, dal testo scritto si possono comunque intuire tante cose, anche solo certo. A livello onomatopeico, piuttosto che così a livello comunque intuitivo. È chiaro che la preselezione, secondo me, è importante che ci sia negli slam, in tutti gli slam, affinché non ci sia una deriva così di tipo più amicale, clientelare, che non sarà gravissima, ma comunque è sempre meglio chiaramente dare un'idea della poesia e delle arti più aperta possibile, secondo noi. Ammiriamo il vostro rigore. Lei organizza, quindi, ma non partecipa, immagino. No, non partecipo e me ne dolgo anche un po', perché comunque leggerò una mia breve lirica nell'intermezzo. Fuori concorso. Fuori sì, concorso. Certo. Allora, Max Ponte, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Ponte è poeta, ha curato rassegne di poesia, anche di poesia visiva, ha scritto un micro racconto pubblicato in una raccolta curata da Aldo Nove, insomma ha tutta una serie di operazioni che va svolgendo in questi anni. In particolare abbiamo parlato però dello Slam Poetry di Natale, che si tiene al locale Jazz Down by Law a Torino alle 21:30 di stasera.